falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi raccontiamo una storia destinata a dividere. Raccontiamo la storia di un uomo che significa per molti coscienza, consapevolezza, felicità o addirittura beatitudine. Raccontiamo la storia di un uomo che per altri significherà arricchimento veloce, significherà modo di circuire il suo prossimo e di trarre benefici dalla propria parlantina. Stiamo raccontando la storia di un uomo dai lunghi capelli grigi, dagli occhi neri e profondi, occhi che hanno visto molto. Stiamo raccontando la storia di Maharishi Mahesh Joshi. In realtà Mahesh Prasad Varma è l'uomo che ha insegnato al mondo a meditare. Maharishi nasce a Chikli, che è un piccolo villaggio al centro dell'India, nello stato del Madhya Pradesh. Anche se la data non è certa, si è propensi a credere che sia nato il 12 gennaio del 1918. Quindi, mentre nel resto del mondo la Grande Guerra volge al termine, e mentre invece nel subcontinente asiatico tutto sembra immutato da secoli. Ma questo solo in apparenza. Siamo ancora negli anni delle colonie. Il viceré Lord Chelmsford ha da poco approvato delle leggi antiterroristiche molto repressive, che porteranno tra l'altro a un terribile massacro, quello di Amritsar, che è la capitale dello stato del Punjab. Nel 1919 1500 persone inermi verranno uccise dall'esercito durante un comizio pacifico. Qualche anno prima Gandhi fa ritorno dal Sudafrica e anche per via del massacro di Amritsar decide di impegnarsi nel lungo processo non violento che porterà l'India a affrancarsi dalla Gran Bretagna. Beh, nonostante tutto questo fervore, nei villaggi regna l'immobilità, le vacche sacre si muovono indisturbate nei sentieri polverosi, mentre i bambini coperti di stracci giocano tra di loro. Questo è lo scenario, e rispetto a tutto questo Mahesh è un bambino fortunato, perché è nato in una casta di militari, quindi ha la possibilità di studiare e di arrivare addirittura a prendere una laurea in fisica all'università di Allahabad. Ma più che alla natura delle cose, Mahesh sembra interessato alla natura dello spirito. Nel 1941 diventa segretario del maestro Swami Brahmananda Sarasvati, che è il leader spirituale del monastero di Jyotirmath nell'Himalaya. E Mahesh studia per anni, si dedica alla conoscenza dello spirito e alla comprensione del tutto, fino a diventare il discepolo preferito del maestro Swami. Nel 1953, alla morte del suo maestro, e lui non ne può diventare il successore perché non appartiene alla casta dei bramini, quindi dedica il resto della sua esistenza a trasmettere gli insegnamenti del suo venerato maestro al di fuori del monastero. Sono arrivato dall'Himalaya motivato da questa naturale tendenza dell'uomo a diffondere conoscenza. Non potevo restare lì su. Lo scopo dell'intelligenza creativa è la conoscenza, che senza posa cerca di renderci partecipi dei valori più profondi della vita, così meravigliosi come una consapevolezza senza confini, la coscienza della beatitudine, una grande armonia, felicità, libertà dallo stress. E tutte queste cose meravigliose si possono ottenere semplicemente restando seduti a occhi chiusi. È una tecnica così semplice che, avendola imparata dal mio maestro, non era più possibile restare fermo sull'Himalaya. It was not possible to sit quiet in the Himalaya. I'm the day. quali conoscenze porta con sé Mahesh dall'Himalaya? Che cosa ha imparato nella quiete delle ampie sale del monastero? Ha imparato a meditare. Da secoli è lo strumento più importante di tutta la filosofia indiana. È una pratica che, attraverso la capacità di concentrarsi sul momento presente e di liberare la mente da ogni pensiero, porta a una maggiore comprensione di se stessi e del mondo che ci circonda. È un metodo senz'altro più valido di quello che ha dovuto sopportare Scarlett Johansson nell'ultimo film di Luc Besson, Lucy, dove per colpa di una letale droga sintetica acquisisce in brevissimo tempo l'utilizzo del proprio cervello al 100%, e per una specie umana che ne usa il 12 e molti anche meno, è un risultato che può rivelarsi devastante. Se ci fosse un modo di utilizzare il 100% del nostro cervello, cosa saremmo in grado di fare? Sì? Professor Norman, ho letto le sue ricerche sull'uso delle capacità cerebrali. Sono elementari, ma è sulla strada giusta. Grazie. Sono capace di fare cose che non ho mai fatto prima. Io sento tutto e posso controllare gli elementi intorno a me. È incredibile. Ci dobbiamo incontrare. E invece la rivoluzione di Mahesh è quella di trarre dalla meditazione tradizionale un metodo semplice, universale, un metodo che sia utilizzabile in ogni momento della giornata. È alla ricerca di uno strumento efficace per conquistare una pace interiore, aumentare lo stato di allerta della coscienza, espandere le proprie capacità intellettuali e spirituali. Mahesh chiama questo tipo di meditazione meditazione trascendentale. Diventa un brand. The principle of transcendental meditation is simple. Il principio della meditazione trascendentale è semplice. L'essere è per sua natura felice, è infinita felicità, e la mente si muove sempre nella direzione di una maggiore felicità. È esperienza di tutti che la mente aspiri alla felicità, e poiché la natura dell'essere più profondo è questa spinta verso la felicità, la mente durante la meditazione trascendentale raggiunge questa naturale tendenza in modo più spontaneo. Mahesh sostiene che bastino pochi minuti al giorno di meditazione per raggiungere uno stato mentale di immensa quiete e di potenziamento delle proprie facoltà. Ogni uomo può raccogliersi per 15-20 minuti, due volte al giorno, ripetendo un suono specifico chiamato mantra, e può raggiungere quello stato naturale di consapevolezza che viene chiamato trascendenza, cioè che va al di là di questo mondo, liberandosi così dal fardello della pesantezza terrena. Quindi rilassamento, gioia, eventualmente il raggiungimento della beatitudine. Questi sono gli effetti benefici di quella che viene chiamata meditazione trascendentale. In questa meditazione noi non ci concentriamo, né controlliamo la mente, ma la lasciamo libera di seguire il suo naturale istinto verso una maggiore felicità e verso l'interiorità, acquisendo così la coscienza della beatitudine dell'essere. Stiamo raccontando l'ascesa personale, spirituale, sociale e tra un po' anche economica di un uomo che parte da un piccolo villaggio al centro dell'India, passa per le alte montagne dell'Himalaya e arriva a diffondere il suo insegnamento in tutto il mondo. È l'insegnamento che fonda la sua dottrina nella convinzione che ognuno di noi ha dentro di sé un potenziale infinito. Il Maharishi Mahesh Yogi, che da questo momento viene chiamato Maharishi, il nome dell'uomo che ha diffuso le tecniche della meditazione trascendentale in tutto il mondo, nella convinzione che se anche solo l'1% della popolazione meditasse in modo costante, la qualità della vita di tutti migliorerebbe considerevolmente. E qua anch'io ci credo, anche perché se uno medita, come minimo non fa danni. Nel 1957 Maharishi si stabilisce a Madras, nel sud dell'India, dove fonda il suo movimento di rigenerazione spirituale. Già a partire dall'anno dopo, sostenuto dalla convinzione che la meditazione è necessaria per raggiungere la felicità, il piccolo uomo dalla vocetta acuta con i lunghi capelli da santone inizia a girare per il mondo con lo scopo di insegnare a tutti le sue tecniche. Affrontando il lungo viaggio che lo porta a parlare in ambiti così diversi dal suo e a culture completamente diverse dalla sua, Maharishi si preoccupa innanzitutto di rassicurare che la sua meditazione trascendentale non è una religione, non vuole sostituirsi a nessun credo. So there is no opposition to... Non c'è opposizione al cristianesimo. Io amo molto Cristo e credo che debba essere molto felice di questo accrescimento del desiderio dell'infinito che esiste nella vita di ogni uomo. Perché trovare il regno dei cieli dentro se stessi è stato l'obiettivo principale di Cristo. Dunque la meditazione trascendentale, che porta la consapevolezza a un livello che lo stesso Cristo desidererebbe per tutti gli uomini, significa che essa è amica del cristianesimo. Is only a friend of Christianity. Maharishi sa anche che l'Occidente non è l'India e la vita materiale gioca una parte importante nell'esistenza degli uomini. Anche su questo vuole rassicurare le persone a cui si rivolge nelle affollate conferenze che tiene in tutto il mondo. C'è la gioia per tutto ciò che esiste fuori da noi stessi e per l'oceano di felicità che esiste all'interno. Facciamo esperienza dell'interiorità e dell'esteriorità. Quando vogliamo sperimentare l'unità della beatitudine, andiamo in una direzione. Quando vogliamo sperimentare la varietà delle espressioni della felicità, andiamo verso l'esterno e ne godiamo. La vita materiale è assolutamente compatibile con l'esperienza spirituale. Non è che uno deve chiudere i cancelli alla vita materiale e quindi godersi l'esperienza spirituale. No. No. Nel 1958 Maharishi è in tour, perché di tour si parla, un tour promozionale. È in Gran Bretagna, l'eco delle sue conferenze arriva ovunque, anche nelle città più piccole provinciali come Liverpool e il grosso porto commerciale che si affaccia sul mare d'Irlanda. E in quegli anni sta conoscendo una grossa crisi economica, ma Liverpool è anche la città in cui di lì a poco si svilupperà il fenomeno destinato a cambiare il mondo musicale. Il fenomeno Beatles. Maharishi torna in Gran Bretagna 10 anni dopo, nel 67, siamo già in business class e il Maharishi è già una star. Ma i Beatles non sono da meno, anzi, sono all'apice del successo. Migliaia di fan urlanti li seguono durante ogni loro spostamento, vengono coinvolti in una vita divertente, ma anche delirante. Così quando i quattro, Paul, John, George e Ringo, vengono a conoscenza delle conferenze tenute dal Maharishi sulla meditazione trascendentale, decidono di partecipare, perché ovviamente il loro ritmo frenetico li sta facendo sbalestrare un pochino. Beh, il primo tra tutti è Paul McCartney, perché a quel tempo era il primo consapevole che il successo era molto pericoloso. It was actually George Harrison's wife, Patty. Fu la moglie di George Harrison, Patty, che seppe che Maharishi stava arrivando e disse che tutti noi avremmo dovuto andare a sentirlo. Io non ero in un buon periodo della mia vita. Stavo esagerando in tutto. Erano gli anni 60. Avevo perso il mio centro e stavo cercando qualcosa di diverso. Credo che fosse lo stesso per tutti noi. Bene, tra i quattro di Liverpool ce n'è uno che ha maggior bisogno spirituale di tutti gli altri, è George Harrison, è il chitarrista dall'animo gentile che si adattava con più difficoltà di tutti a questo nuovo tipo di vita, fatto di spostamenti, di fan, di clamore, di rumore, di danaro, di voglie che vengono soddisfatte e quindi di voglie più profonde che nascono. George Harrison in quegli anni è sposato con Patty Boyd e le confidava il suo disagio già allora. He wants to be a spiritual being. Più di ogni cosa voleva essere un essere spirituale, ma non poteva per via della vita che faceva. Quindi era amorevole e gentile e dolce, perché questa era la sua natura, ma era anche arrabbiato per la frustrazione che provava. Sentiva che c'era qualcosa, ma non riusciva a farla davvero sua, perché c'era qualcosa di troppo terreno che lo tratteneva, e di questo ne era cosciente. George Harrison è in cerca di qualcosa. In quel momento Maharishi è la risposta giusta alla sua ricerca. Per questo, quando la conferenza ha inizio nella sala principale del London Hilton Hotel, George e la sua moglie Patty sono in prima fila. Volevo iniziare a meditare, ma un conto è voler imparare, un altro è come farlo. Ero arrivato al punto in cui mi serviva un mantra, solo che tu non puoi andare da Harrods e chiedere un mantra. Fu allora che un amico mi mostrò la notizia che ci sarebbe stata una conferenza tenuta da qualcuno chiamato Maharishi. L'impatto col Maharishi è fondamentale per i Beatles. Quello che loro ascoltano durante questa conferenza ha un effetto profondo sulle loro coscienze. Decidono di seguire il maestro in un ritiro a Bangor, nel Galles. Ringo Starr, che non era riuscito a essere presente alla conferenza, viene chiamato in tutta fretta al telefono e viene invitato a partecipare. Ricevetti un messaggio da George e da John. Andiamo nel Galles, abbiamo incontrato questo tizio, l'abbiamo ascoltato. È grande. Dai, vieni nel Galles. E così alla fine di agosto tutti e quattro i Beatles con le mogli sono sul treno diretti a Bangor. C'è solo Cinzia, la moglie di John, che non riesce a salire perché la polizia le impedisce di salire sul vagone, perché nel clamore generale la prendono per una fan. In qualche modo forse questo è un segno, perché Cinzia viene lasciata a terra, non partecipa a quel seminario e in un certo senso evita di accodarsi alla trasformazione spirituale di John e dei suoi compagni. Il risultato è che di lì a poco Cinzia Lennon, che peraltro è scomparsa proprio poco tempo fa, vive la sua sofferta e difficile separazione da John. Quel giorno di agosto c'è un treno che sta partendo per il Galles, e quella non fu solo una partenza fisica verso una destinazione precisa, ma una partenza verso un cambiamento radicale nel modo di percepire la vita e il mondo da parte dei quattro Beatles, che attraverso gli insegnamenti di Maharishi raggiungeranno, ognuno a modo suo, il loro io più interiore. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia del maestro indiano Maharishi Mahesh Yogi. Lui in questo momento è in Gran Bretagna per il suo tour promozionale, per trasmettere al mondo in realtà le tecniche della meditazione trascendentale. Quindi una cosa molto seria che fa colpo soprattutto sui Beatles, che frastornati dalla loro vita assolutamente unica, ma che comunque non privilegia certo gli aspetti interiori, hanno voglia di qualcos'altro, qualcosa che non può dare loro né il denaro né la popolarità. Decidono di raggiungerlo nel suo ashram a Rishikesh, che è nell'estremo nord dell'India, ai piedi del massiccio dell'Himalaya. Il periodo particolare della vita dei Beatles è evidente a tutti. Oltre al successo di cui abbiamo più volte parlato, sono arrivate le droghe, è arrivato l'LSD, è arrivato un tipo di vita tipico da rockstar che potrebbero avviarsi verso la distruzione. Loro vedono invece nel Maharishi la possibilità di apprendere qualcosa di nuovo per raggiungere un livello di consapevolezza diverso, e probabilmente stanno cercando la pace che il mondo frenetico che hanno appena conquistato non può dare loro. Per questo decidono di accettare l'invito del Maharishi, e nel febbraio del 68 arrivano alle pendici dell'Himalaya per trascorrere un mese immersi nella meditazione. Chiaramente è un evento del quale tutto il mondo parla, e ne parleremo molto anche noi. Paul McCartney ricorda ancora il luogo in un'intervista concessa a un altro re della meditazione, che è il regista David Lynch. Il posto era molto semplice, niente di elegante. Ti svegliavi la mattina e facevi colazione, una colazione leggera. Si scambiava qualche parola con gli altri ospiti per conoscersi, e poi si tornava con la propria meditazione mattutina. Ognuno di noi aveva il proprio bungalow, semplice ma in ordine. Ti sedevi e meditavi, poi si pranzava. Forse le regole semplici sono proprio la chiave del successo del soggiorno dei Beatles in India. E niente sregolatezze della vita della swing in London, niente grandi alberghi, niente servizi in camera. Si trovano con una giornata scandita da impegni basilari che diventano, in un certo senso, purificatori. La sera si stava tutti in una sala, una serata un po' formale dove potevamo fare domande. C'eravamo tutti noi studenti. Poi Maharishi arrivava e ascoltava tutti i nostri interrogativi, tutto quello che c'era successo. Ascoltava senza parlare. Beh, le giornate a Rishikesh regalano veramente momenti di beatitudine, così diversi da tutto quello che i Beatles hanno vissuto prima. E Paul, che è in questo momento uno dei più entusiasti, ne ricorda uno in particolar modo. Ci furono momenti molto belli. Ne ricordo uno in particolare accaduto mentre stavo meditando da un po' e che mi portò in un bel luogo. Ricordo che mi sentivo come una piuma. Ero veramente una piuma che volteggiava su dell'aria calda. Una bella sensazione che ancora ricordo vividamente. E lo dissi a Maharishi. E lui mi rispose, sì, questo è buono. Beh, se il Maharishi era alla ricerca di qualcuno che lo aiutasse a diffondere le sue teorie sulla meditazione trascendentale, non poteva trovare una cassa di risonanza migliore. Tutto il mondo, tutti i giornali del mondo diffondono le foto dei Beatles vestiti di bianco, diventano parte dell'icona dei Beatles e della loro storia. Anche perché lì non ci sono solo loro, oltre a Paul, John, ancora con Cynthia Lennon, George, Patty, Harrison e Ringo con la moglie Maureen, c'è anche Donovan, c'è Mick Love dei Beach Boys e c'è anche una giovanissima attrice, Mia Farrow. Mia è un'altra che ha subito le difficoltà di una vita frenetica, di successo. Si è appena separata dal marito, il marito era Frank Sinatra, e ha pianto per mesi, ha cercato di trovare pace e serenità lontana dagli assalti dei paparazzi. Per questo accetta il suggerimento della sorella Prudence, ricordate Prudence questo nome, già interessata alla meditazione trascendentale. Segue la sorella a Rishikesh e in India la sua esperienza è positiva, ma anche piena di momenti esilaranti, come racconta lei stessa anni dopo. Bisognava portare frutta e fiori al Maharishi e lui ti dava il mantra, solo che io ero allergica e c'erano un sacco di fiori. E così, quando mi chinai per avere la mia parola speciale, starnutì e non capii esattamente cosa mi avesse detto. E così chiesi, scusi, non ho capito, ma lui sorrise e basta. E per tutto il periodo che restai lì, ed è stato tanto, non ha mai voluto ripetermela. E io credo che sia per questo che non ho raggiunto l'illuminazione che credevo. Le immagini, come abbiamo detto, fanno il giro del mondo e le immagini mostrano un luogo inondato dal sole dove un gruppo di giovani, belli, intelligenti, creativi, tutti vestiti di bianco, desiderosi di migliorare se stessi, circondano questo ometto buffo dalla voce in falsetto che parla un po' così, che con occhio sereno e divertito li segue nella loro ricerca. Ogni sera lui li raccoglie a sé, ascolta le loro perplessità, i loro dubbi, li invita a cercare ancora più dentro se stessi l'origine della felicità. L'unica tecnica possibile per lui è sedersi per qualche minuto tranquilli, allontanare i pensieri dalla mente e meditare recitando il proprio mantra. Fra tutti i presenti, la più seria discepola del Maharishi è sicuramente Prudence Farrow, che ogni giorno si ritira nel suo bungalow per ore. Io volevo davvero studiare con la guida migliore e l'unico era Maharishi Manesh Yogi. E quando imparai la meditazione trascendentale, questa divenne una specie di ossessione per me. Volevo studiarla sempre più e nonostante anche i Beatles fossero a quel corso ed erano persone fantastiche, per me non era molto importante. Quindi trascorrevo le giornate in camera mia a meditare. il che forse non era capito dalle persone che erano con me, ma io sapevo che il mio tempo sotto la guida di un tale maestro era prezioso e non ho mai rimpianto un solo momento di quel periodo. Prudence è la favorita del Maharishi e i Beatles la prendono un po' in giro per questo. John le dedica una canzone in cui la invita a uscire di più, a giocare con loro. Dear Prudence, e Mia Farrow ricorda l'invidia che provò per questa dedica. I Beatles erano davvero divertenti e io avevo proprio bisogno di ridere. E tutto l'ashram risuonava con Obladi Oblada. Scrissero anche una canzone, Dear Prudence. Era per mia sorella, sapete? Dear Prudence. E onestamente io avrei dato tutto perché fosse Dear Mia. E che chiedessero a me di uscire e andare a giocare. Ma non è andata così. Comunque è stato un periodo molto divertente, anche se non ho imparato niente. Un momento però in cui le cose appaiono meno perfette. Intanto parte come un pettegolezzo, un rumore di sottofondo, però a un certo punto si diffonde la notizia che una donna è stata molestata dal Maharishi e il nome sulla bocca di tutti è quello di Mia Farrow. Dopodiché si racconta anche che il primo a scappare via dal posto fu Ringo Starr, la versione ufficiale, che andò via perché non si mangiava bene. C'è un'altra versione che circola, secondo la quale Ringo fu il primo che incautamente entrò nella camera del Maharishi trovando una sua discepola, diciamo così, accovacciata tra le gambe del santo uomo, e quindi questo in qualche modo ha reso Ringo un pochino meno entusiasta della meditazione trascendentale. Ma questi sono pettegolezzi. Comunque i Beatles discutono una notte intera tra loro e alla fine decidono di affrontare il maestro. John Lennon ricorda questo episodio così. Come al solito, quando c'è del marcio, fecero parlare me. Io lo affrontai e gli dissi: ce ne andiamo. Lui mi guardò stupito e mi chiese perché. Io gli risposi solo: tu sai perché. E il giorno dopo partimmo. Ripensandoci, fui molto duro con lui. Il Maharishi ci rimane male per la dipartita dei suoi principali sponsor. Si racconta anche che abbia cercato di farsi fare un cartello tra i tassisti affinché nessuno li accompagnasse all'aeroporto. Certo, doveva essere stato un brutto colpo. John è ancora sotto l'effetto della arrabbiatura. Scrive una canzone il cui ritornello dice: Maharishi, cosa hai combinato? Però George Harrison, che invece è il più ortodosso, disapprova perché la frase non gli va giù. Gli dissi: non puoi fare così, non essere ridicolo. E dopo un po' mi venne in mente il titolo Sexy Sadie e John sostituì la parola Maharishi con Sexy Sadie. Comunque anche Mia Farrow alla fine ricorda con divertimento e leggerezza il suo viaggio dal Maharishi e non ne parla mai male. E di tutta questa storia rimane solo un'altra bella canzone dei Beatles, che comunque hanno sempre capitalizzato le loro esperienze con la loro arte. E addirittura l'arrabbiatura di John è anche causata forse da una certa sua agitazione interiore, perché ricordiamoci che è il periodo in cui ha appena, o comunque sta per lasciare la moglie Cinzia a favore della ben nota Yoko Ono. Ma Sexy Sadie non è l'unica canzone nata a Rishikesh, perché e per i Beatles comunque sia andata, il periodo dal Maharishi è un periodo che favorisce la loro vena ispirativa, ammesso che ne avessero bisogno. Sta per uscire, ed è in un certo senso il frutto del mese passato in India, il mitico doppio album, The White Album, doppio disco con canzoni storiche. Oltre a Sexy Sadie c'è Dear Prudence, ma c'è anche Obladi Oblada, While My Guitar Gently Weeps, una delle più belle canzoni dei Beatles, scritta da un ispiratissimo George Harrison, Revolution, Blackbird. Per il Marisci e la sua meditazione trascendentale, insomma, questo album in qualche modo è un'ennesima pubblicità favorevole. I milioni di copie vendute in tutto il mondo del White Album sono un altro spot a favore del barbuto Santone. Da allora nel mondo sono nate molte fondazioni che sostengono la meditazione trascendentale. Una delle più famose è quella fondata da David Lynch, dal regista, che pratica la meditazione dal 1973. In una delle sue tante conferenze, tra l'altro una l'ho presentata io a Milano, una conferenza di David Lynch, in una delle sue tante conferenze spiega bene i benefici effetti della meditazione. If you have a golf ball size consciousness, se si ha una coscienza delle dimensioni di una palla da golf, la tua comprensione avrà la dimensione di una palla da golf. Quando ti guardi intorno, sarà con la consapevolezza di una palla da golf. E quando ti svegli, anche il tuo stato vigile avrà le dimensioni di una palla da golf. Ma se hai la possibilità di espandere la tua coscienza, allora quando leggerai, capirai di più, ti guarderai intorno con maggiore consapevolezza e ti sveglierai più vigile. Questa è la coscienza. E c'è un oceano di pura e vibrante coscienza in ognuno di noi. Each one of us. La novità è che David Lynch fa uno sforzo, lui e la sua fondazione, affinché la meditazione trascendentale arrivi anche a gente che non ha possibilità economica, perché uno dei talloni d'Achille della meditazione trascendentale del Maharishi è quello che era sempre stata accusata di essere troppo costosa, di essere una meditazione di elite. Avevo provato a meditare prima, tipo la respirazione e tutte le altre cose che facevo a yoga. Ma dopo due minuti che chiudevo gli occhi li riaprivo e mi dicevo: ma come si fa? È impossibile focalizzarsi sul respiro. Poi ho saputo della meditazione trascendentale e di tutte le persone interessanti che l'hanno provata. E la cosa mi ha fatto molta impressione e quindi mi sono detta: ci deve essere qualcosa di buono, voglio provare anche se non ne sono capace. E così ho provato ed è stata l'unica volta che sono riuscita a stare ferma e seduta e a riaprire gli occhi dopo 20 minuti, pensando che fosse passato solo un minuto, con un senso di soddisfazione mai avuto prima. Maharishi muore nel 2008 a 90 anni, lasciando per i suoi detrattori una grande multinazionale della meditazione. C'è anche una rete televisiva, c'è di tutto dal punto di vista industriale, ma invece lasciando soprattutto decine di milioni di persone che sostengono di aver avuto la vita cambiata da lui, tutti alla ricerca di un benessere, di una felicità che va al di là della più immediata soddisfazione personale, che raggiunge il vero centro dell'io interiore. Ogni singola persona tra queste decine di milioni ringrazia ogni giorno il piccolo maestro indiano per aver donato una tecnica così semplice per avvicinarsi alla beatitudine. Tra tutti quelli che piangono la sua scomparsa c'è anche Paul McCartney, che lo ricorda ancora con affetto. Mi è stato chiesto cosa ne pensi della scomparsa di Maharishi Mahesh Yogi avvenuta ieri e posso solo dire che, mentre sono profondamente dispiaciuto per la sua morte, le memorie che conservo di lui sono solo felici. È stato un grand'uomo che ha instancabilmente lavorato per la gente nel mondo e per una buona causa. Non dimenticherò mai la dedica che scrisse in un libro che mi diede una volta, che diceva «Irradia beatitudine e coscienza». E questo per me dice tutto. Mi mancherà, ma penserò a lui sempre con un sorriso. Al di là di tutto, uno che, come consiglio, dice irradia beatitudine e coscienza va seguito come minimo con interesse. Ci sono persone che cambiano la storia, non solo loro, ma anche ci sono persone che cambiano la storia degli altri con questo colpo d'ala. È il caso del protagonista di oggi, di Maharishi Yogi. Se avete storie che voi volete che noi si racconti, fatelo, scriveteci, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, comunque in qualche modo mi trovate. Vi abbraccio, ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi.